leggi della regione, non sono opinioni mie queste che leggo, l'organizzazione ospedaliera prevista dalla legge 135 2012 è la legge Balduzzi, la legge del governo tecnico Balduzzi sostenuta dalla destra e dalla sinistra. Sulla base della legge 135 fanno le case della salute. Tu dicevi prima coinvolgimento, ma ragazzi, è dal 2012 che sono previste le case della salute. Non mi hanno detto un cazzo fino adesso. E dov'è il coinvolgimento? Sì, dal 2006, non dal 2012. Sì, dal 2006. Bravo, non volevo esagerare. Bravo. Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, riorganizzazione ospedaliera prevista dalla legge 135, dal patto per la salute 2014-2016 e dal decreto ministeriale salute 70-2015. Nel luglio 2015 la conferenza Stato-Regioni approva la proposta di intesa per il taglio della sanità del ministro della salute Beatrice Lorenzin, che sancisce una riduzione di 2 miliardi e 352 milioni di euro dal Fondo Sanitario Nazionale per il 2015-2016. L'Emilia-Romagna è tra le firmatarie dell'accordo. Ha tagliato solo nel 2015 850 posti letto. Lombardia, tu parlavi di cronicità? Allora, voi non lo sapete, ma in Lombardia il presidente Maroni della Lega ha varato una legge in sede di giunta, quindi neanche in sede di consiglio regionale, in sede di giunta, cioè quindi senza passare dal dibattito regionale, che prevede che i malati cronici, quindi diabetici, cardiopatici e tutti quelli cronici, verranno gestiti da una società privata. Verrà tolto il medico di base e verranno gestiti da una società privata. Questa società privata prenderà in carico il malato cronico, avrà 2.000 euro ogni malato cronico, stimati in Lombardia sui 2.300.000 abitanti. Ogni malato cronico sarà pagato dalla regione. Cioè la regione pagherà per ogni malato cronico questa agenzia privata e lo curerà, ma se il malato cronico dovesse avere il decesso nel corso di questo pagamento di 2.000 euro, quello che rimane va nelle casse dell'associazione privata. Quindi un diabetico non ha nessun interesse a essere curato dalla società privata, mi spiego? Quindi facciamo 2.300.000 malati cronici che prendono 2.000 euro l'uno, se io gli faccio, invece che guarire, gli faccio fare qualcos'altro, avete capito il gioco? Vado avanti. Però possiamo dare un limite di tempo agli interventi, perché sennò non riusciremo mai a parlare. Guarda, lascio il no, ma non foglio. per te, cioè dico in generale, se siamo d'accordo, diciamo, non so, 4 minuti per intervento, perché altrimenti, cioè, per forza non parlerà nessuno. Se qualcuno può tenere il tempo, cioè lo posso tenere anche se volete, però tengo io il tempo. Guarda, lascio il foglio, concludi. No, no, ma non era per lui, era solo per una questione di equità. Sì, cioè, perché no. Siamo in tanti stasera. Tengo io. Però, vabbè, Giuliano, finisci. Allora, mi sono fatto delle domande e do le risposte. Perché le case della salute? Cosa sono? Chi le ha decise? Chi le vuole? Perché le vuole? A cosa servono? Risposte. Le case della salute devono sostituire le ASL. Le case della salute sono strutture in cemento armato che contengono solo parte di ciò che è esistito nelle ASL. Le case della salute le ha deciso un gruppo di tecnici pagati dalla politica per dare forma fisica al progetto di smantellamento della sanità pubblica. Le case della salute le vuole quella parte di politici che sta portando avanti il progetto di smantellamento della sanità pubblica per arrivare a una sanità totalmente privata. Siamo già arrivati in Francia e in Gran Bretagna, ci arriveremo anche qua. Le case della salute le vuole questa parte di politici per assecondare un progetto europeo mondiale che prevede la privatizzazione di tutti i sistemi statali entro il 2030. La sanità lo sarà molto prima. Le case della salute servono per dimostrare una rivoluzione sanitaria a vantaggio dei cittadini, ma in realtà sono soltanto un imbroglio che nasconde la verità. Avrei altre cose da dire sugli OSCO, i famigerati ospedali di comunità. Se ci finite dentro non ne venite fuori vivi. E le liste d'attesa, ricordo che il mio documentario che ho dato alla ragazza è un documentario che ha avuto un grande successo in tutta Italia. Quello che fatto della carriera un paio Sì, di anni fa. un anno fa. Sì, è documentato che il Sant'Orsola è chiuso per un terzo, chiuso a chiave. in Sant'Orsola ai reparti chiusi a chiave per un terzo. Stanno chiudendo. Nel documentario ci sono ospedali smantellati in Emilia Romagna, in Italia, in Friuli, in Lombardia, demoliti, ospedali nuovi, e li fanno la casa della salute. Li stanno prendendo per il culo. Sì, grazie. Sì, allora, sì. Antonio. Io rapidissimo, un minuto, lo giuro, per aggiornarvi che insieme a Brunella lunedì sera siamo stati in Valsamoggia, che c'era un'assemblea sulla sanità, e dove io ho sollecitato un concetto, e cioè che molti sottovalutano, perché lo scenario apocalittico che dà lui è reale, non è tanto campato in aria, scusami se... È nel documentario. Eccetera. Allora, quello che ho sollecitato io è un concetto che noi sottovalutiamo. Noi siamo anche città metropolitana, cioè non siamo solo Bologna, non siamo solo una ville, ma siamo tutti i comuni della provincia. E io vorrei sollecitare in questa assemblea, qualora prendesse forma e forza un'opinione da portare avanti grossa, sollecitare che questa cosa sia estesa a tutti i quartieri, ma anche a una rete metropolitana che ci dia molto più forza, che sia molto più trasversale, perché qui non è il nostro orticello. Il nostro orticello è una partenza di tutti gli altri, per cui qualora succedesse questa cosa non sottovalutiamo l'idea di fare un po' di rete, e nessuno sottovaluti il fatto che se può parlare con un amico, con un parente, con un cugino, con il proprio barista che magari sta in un altro quartiere, in un altro comune, fatelo, parlatene, perché giocano sul fatto che siamo tutti divisi e sul fatto che ognuno parla sul proprio orticello. Finito. Allora, siamo qui per sentire pure i cittadini, le cittadine, quindi ascoltiamo anche quali sono le vostre preoccupazioni, domande, magari qui c'è qualche esperto, qualcuno sa rispondere. Volevo chiedere per quanto riguarda il domiciliare del Marco Polo, perché ho una madre che è quasi allettata ed è assistita, cioè le infermiere del domiciliare vengono a casa a fare i preghieri, queste cose qua. Quindi anche di questa cosa io l'ho saputa per le traverse che il domiciliare chiudeva. Mi sono avvisata, non sono detto niente, non sono anticipato questa cosa, nessuno ha cercato di assicurare su questa cosa. E come considerato con la tutoria? Allora, io... Prego, magari rispondiamo. Io sono, mi chiamo Teresa e faccio l'infermiera e lavoro di là. Le notizie non sono così proprio precise, però quello che è certo è che noi il 6 ci dobbiamo traslocare, noi traslochiamo. Quindi se fai il prelievo, ma stavolta le madre ci fa l'ultimo prelievo, sicuro. No, noi traslocheremo per il 7, adesso non mi ricordo bene, ma il 7, l'8 mi sembra che... di febbraio, cioè tra poco. Sì, esatto. La prossima settimana. E per due giorni si farà una diminuzione dei prelievi, ma tutte le prestazioni saranno diminuite, ma poi tutto ritorna come prima, se questo può rassicurarti, nel senso che e poi si riprenderà l'attività normale dei prelievi, le prestazioni sanitarie, la presa in carico dei pazienti. Questo è quello che... Scusa, ha fatto una domanda e mi permette di parlare, vuol dire che allora non è vero che questa... non è vero come si era capito all'inizio che era coinvolto solo il collaboratorio Perini, ma sono coinvolti anche negli altri punti di riferimento territoriale. Certo. Assolutamente sì. Perché quello che si diceva sulla carta e sui giornali era che era solo il collaboratorio Perini. In realtà mi sembra di capire che non è vero. No, infatti io questa cosa, la cosa che mi ha lasciato un po' basita, che mi ha anche allarmato un pochettino, che io questa cosa, e poi l'ambulatorio Marco Polo, ho imparato per caso perché traverse. Certo. Però mi domando anche, no? Se voi dal 7, scusate, se voi dal 7 siete, cioè, chiude, diciamo, il Marco Polo, da sette dov'è che siete? Cioè, se io come utente ho bisogno di una variazione, certo, per quanto riguarda un periodo, un classico periodo cumuli, dopo il 7. Ma guarda, no, adesso... ma non ce l'ho con, no, ma guarda, aspetta, no, guarda, io non, con non me. Mi sento presa di mira, no, perché tanto l'organizzazione è veramente caotica, sì, non sì, solo per noi, e non solo per i cittadini, ma anche per noi, ma siamo tutti quanti nella stessa parte, perché abbiamo delle grosse difficoltà nel gestire tutta questa cosa, che non sono io nella persona di singola infermiera, certo, ma c'è la mia coordinazione e tutti quelli che sono. Infatti mi ricordo perché l'anno scorso, cioè tu guarda, fecero, andavano in paziente e in base a una scheda tecnica facevano la raccolta dati per togliere i pazienti. Io dove feci una guerra, mi ricordo, con la coordinatrice perché voleva togliere la domiciliare, cioè, secondo lei alcune fasce erano da tenere in considerazione, altre no, invece una guerra, okay, la minacciai quasi di dare ai giornali se toglieva la domiciliare a mia madre, mi madre la sua che mezza abitata, e quindi adesso capisco perché ci fu la raccolta dei dati, perché era già in progetto questa cosa. No, questa adesso io non so, guarda, questa se tu parli di una scheda, no, non lo so, perché no, okay, ma sai che cosa, il cittadino, il problema è che il cittadino poi dopo, certo, si fa, certo, si fa dei viaggi strani, capito, però restiamo invece su questo, sull'aspetto del trasloco e di cosa andrà. Vado? Scusa sì. Ok, dicevo, restiamo su questa cosa del trasloco, per quanto riguarda ciò che sta di là. Tutta la domiciliare andrà, almeno fino a oggi, andrà alla casa, della cosiddetta casa della salute, e poi dopo tutto riprenderà come prima. Io non so dire bene come sarà organizzata dentro, però quello che ci dice la mia caposala è che poi tutto dovrà riprendere come il giro di prelievi, le prestazioni poi. Noi abbiamo delle grosse difficoltà, io non ti posso rispondere, non ti so dire i numeri di telefono, li abbiamo ricevuti, i nuovi numeri di telefono da dare, li abbiamo ricevuti oggi in una riunione, quindi dovremmo, io ce l'ho questo, ma non sono io che c'era. Ho finito, però quello che voglio dire comunque, è che siamo qua anche per raccogliere appunto queste domande e queste perplessità, dopodiché ovviamente non sappiamo nemmeno noi. No, ma non è una polemica la mia, però mette insieme dei tasselli, no? Dopodiché però ripeto, quello che siamo detti all'inizio è al di là del singolo servizio che verrà, ci sarà o non ci sarà, quello che ci interessa è anche, come dire, che tipo di casa sarà questa casa della salute rispetto al pubblico. Io, diciamo, Martino Arrivo, sono un medico, mi occupo di organizzazione di sistemi sanitari e sono occupato di casa della salute sempre. Per questo sono anche disoccupato in questo momento, per quanto vari anni che ho tagliato all'università. Perché la casa della salute in realtà è una strategia che il mio neoliberismo ha sempre apprezzato. Io ho lavorato su modelli di casa della salute nel mondo, il modello più antico è quello di Cuba. Più recentemente hanno sviluppato un modello di casa della salute in Brasile e in Venezuela, sotto il governo Lula e sotto il governo Chavez. Mentre noi in Europa abbiamo avuto grandi difficoltà per poterli implementare. Quindi sicuramente se gli accorsi della Casa della Salute erano in una conferenza del 78 che è stata fatta da Amata, la famosa conferenza di Amata, dagli anni 80 in poi il modello liberista ha combattuto contro la Casa della Salute. Perché la Casa della Salute punta ad avere grande assistenza da parte dei professionisti e dei cittadini e poi tecnologia. Ma non basta tecnologia nel senso che devono essere passive delle persone, che si tende a non vendere presidi sanitari inutili per far arricchire le case farmaceutiche o quelli privati. È per questo che il modello casa della salute è sempre stato indigesto. A un certo punto anche l'OMS si è reso conto che il modello che doveva essere adottato, ha cominciato a dire dal 2008. Il rapporto dell'OMS del 2008, il Foro Mondiale, si chiamava proprio casa della salute adesso. E quindi si sono dovuti arrendere anche un sacco di stati europei. Per dirvi, in Brasile il modello è stato implementato a partire prima cosa che ho fatto sul governo è anche cercare di smontarlo, perché diminuita la mortalità della popolazione negra e diminuita la malattia nella popolazione delle favelas, e i medici di famiglia che lavoravano in questi contesti sono riusciti a risolvere il 90% dei bisogni di salute senza ricorrere all'ospedale, diminuendo in maniera drammatica la spesa. Soltanto che gli ospedali privati andavano dal sindaco e dicevano: sindaco, voi ci state prosciugando, perché ci state ammazzando, non ci vanno più a lavorare, queste case della salute sono troppo efficaci. E la prima cosa che ha fatto il nuovo sindaco di Rio de Janeiro, che si chiama Trivella, è stato proprio cominciare a montare le case della salute per finanziare il sistema privato. Se non ci credete, la prossima settimana noi avremo qua a Bologna un laboratorio internazionale, si chiama Laboratorio Italo-Brasiliano di Ricerca e Pratica in Salute Collettiva, in cui verranno colleghi portoghesi, colleghi spagnoli, colleghi brasiliani, e faremo una giornata, anzi, dei giorni di formazione, venerdì, sabato e domenica, di 16-17-18, con i medici di famiglia italiani, giovani che vogliono imparare il modello. Ci saranno i colleghi anche portoghesi, spagnoli e brasiliani. Se volete possiamo anche iniziare, possiamo fare un'iniziativa con loro per qualche mese, ci spiegano quella potenza del lavoro che è e come devono lavorare in maniera diversa. Detto questo, io invece poi sono d'accordissimo sul fatto che dopo il momento di shock che i sistemi liberisti hanno avuto di fronte al ritorno delle case della salute, rapidamente si sono riorganizzati per continuare lo stesso livello di privatizzazione malgrado le case della salute. E quindi il tentativo è quello di farle senza farle, e il tentativo è quello di mettere in piedi il modello senza però farlo funzionare come dovrebbe realmente funzionare. Fatto sta che, per esempio, le regioni di destra, che potevano essere quelle che potevano sfruttare di più il modello in termini di liberalizzazione, sono quelle che l'hanno fatto meno. Perché, per esempio, la regione Lombardia si guarda bene a fare le case della salute, fa i centri di gestione e smistamento degli anziani, come giustamente il collega diceva molto correttamente. Quindi per me è molto importante mantenere i due livelli separati, anzi sono tre. C'è un livello di guardia sulla privatizzazione che è esattamente corretto, io proprio poco parola per parola. Abbiamo tagli che sono mascherati da finte mantenimento della spesa, però voi sapete benissimo che se c'è l'inflazione sanitaria è più alta di quella generale, se io mantengo per 10 anni lo stesso finanziamento sto tagliando. E adesso noi siamo arrivati da un sistema sanitario che gestiva 7,8% del prodotto interno lordo a 6,5. Adesso siamo scesi a 6,5. 6,5 il livello di guardia che l'OMS dice essere di sostenibilità dei sistemi sanitari universalistici, e la nostra progressione è arrivare a 6,2-6. Quindi proprio siamo effettivamente una strategia di taglio generale. Ultimo punto che secondo me va scoppiato è capito che la casa della salute è una cosa, che la privatizzazione è un'altra, e come fare funzionare la casa della salute o un sistema sanitario nel nostro quartiere. Perché le esigenze che dicevano le colleghe di quartiere sono giustissime, dobbiamo partire dai bisogni che esistono in un determinato contesto. Forse separare questi livelli ci aiuta, perché se no è molta confusione e si crea anche una difficoltà di ragionamento. Perfetto, grazie. Come cioè Nadia magari ci può fare anche un po' una sintesi di cosa sta spostando da Schiarini, e quello dico solo quello che diceva Di Go, che stiamo raccogliendo appunto anche delle mail list in modo da poterci comunicare, e le cose che comunicheremo anche sono appunto questi appuntamenti che faremo, che sono formativi per capire cos'è una casa della salute, e appunto Di Go con noi sta organizzando, e vorremmo che fossero una manina appuntamenti in cui anche tutti quelli di Coalizione Civica che sono cari e cristiani ci tengono partecipassero. No, io condivido e non ripeto, perché la strategia è quella di privatizzazione e di cambiare il titolo, come si fa in Italia, anche i partiti cambiano il nome per poi porre le stesse facce, gira, no? E questo trasformismo, facciamo questo, poi non si sa bene cosa facciamo, anzi ci sono dei tagli, c'è una riduzione della spesa, una razionalizzazione, e la adombriamo di una cosa bella, nuova, che propone dei nuovi modelli, no? In realtà se si va a vedere sono grandi mistificazioni per creare della confusione e per anche confondere l'idea della gente, no? Per dire stiamo migliorando. In realtà non stiamo migliorando, stiamo peggiorando, ma peggiorando pesantemente, soprattutto in questo territorio del Navile, ragazzi, perdiamo metà dei servizi. E hanno già pensato qual è la strategia. Gli spazi non ci sono, noi possiamo anche urlare che vogliamo più servizi, ma hanno già ridotto gli spazi fisici. Per cui noi abbiamo i 6.900 metri quadri del Chiarini, dove abbiamo tanti servizi, la metà non li avremo più, la radiologia, la pneumologia, le ortottiste per i campi visivi, la chirurgia, e moltissimi servizi non ci saranno più. Hanno rimandato il trasloco della salute mentale perché nel frattempo c'è un progettino Psichiatria 3.0, che vuol dire metterci, spaccarci in due servizi, uno per i più cronici e l'altro per quelli a bassa soglia, chiamiamo, adesso sto un po' semplificando, in modo da poter mettere alla Casa della Salute un servizio già dimezzato, perché gli spazi non ce li abbiamo. A Chiarini avevamo 8 ambulatori, stavamo già stretti per 1.800 utenti presi in carico. Quando andiamo alla Casa della Salute abbiamo 6 spazi e dobbiamo condividere con altri servizi, ad esempio medici e medicina generale, tutta una serie di spazi comuni. Oggi mi veniva detto dalle ostetriche, che sono le prime che traslocano nella Casa della Salute insieme all'assistenza domiciliare, che non avranno più la piccola palestra per fare corsi di preparazione al parto. Molto probabilmente gli daranno una sala riunioni che appena hanno finito il corso già non ci stanno, è tutta vetrata, si vede da di fuori, quindi una situazione assolutamente inidonea per fare corsi di preparazione al parto. Appena finito dovranno rimettere tavolini, sedie, perché dovrà essere una sala multifunzionale e servire a tanti scopi diversi. Voi capite che in 6.000 metri quadri non ci può stare quello che stava in 6.900 più il Marco Polo, più i servizi di Marco Polo, più la fisioterapia di Byron, più probabilmente dei servizi che vengono da Montebello. Cioè hanno pensato bene di fare un Purpuri che non è la Casa della Salute. Se voi vi leggete la delibera regionale della Regione Emilia-Romagna, mentono sapendo di mentire. La Regione Emilia-Romagna fa finta di istituire, fa finta con questa delibera di istituire una delle case della salute nel territorio emiliano-romagnolo, che sono delle case della salute organizzate in bassa, media e alta complessità. Cos'è che dà la differenza tra bassa, media e alta? Il numero della popolazione. Se la leggete su pochi fogli, dice che oltre i 30.000 abitanti la casa della salute deve essere di media alta complessità. E dentro ci devono essere dei servizi di diagnostica, ci deve essere la piccola chirurgia, lo dice. Ma noi che abbiamo una ville ben più di 60.000 abitanti, questi servizi ce li tolgono. Ma allora su questo noi dovremmo organizzare le proteste veramente forti, perché ci tolgono dei servizi già andando contro quella che è la delibera regionale scritta da loro. Ma lo capito? Cioè è una cosa gravissima, no? Ci stiamo prendendo non per il culo ma proprio pesantemente in giro, ci state togliendo dei servizi. Oggi è apparsa a Chiarini l'organigramma di come si faranno le chiusure e i trasferimenti, non firmato da nessuno, non datato, è arrivato in portineria, l'hanno distribuito in tutti i servizi, non si sa chi l'ha fatto, tanto per dire come lavorano i nostri dirigenti, che rispetto c'è del lavoro dei professionisti della sanità, no? Siamo delle pedine che ci spostano come cazzo vogliono, senza neanche dirci chi è che decide questa roba qua. Questo è il foglio, l'ho dato a loro, è una vergogna. Tutti i giorni, di cui ogni giorno c'è una piccola notizia che ci fanno calare dall'alto, perché il controllo sociale su quello che sta succedendo lo vogliono tenere nelle mani di pochissimi, perché sanno benissimo che stanno facendo una porcheria, una bastardata, qualcosa di destra, e lo sta facendo la sinistra in questa città, stanno facendo una roba vergognosa. E dobbiamo iniziare a dire che noi non ci siamo e che vogliamo i nostri servizi in questo territorio, ma anche negli altri territori. Perché la cassa della salute deve essere quella cosa che diceva prima il medico, cioè deve effettivamente rispondere ai bisogni della cittadinanza, ma se tu non leggi quali sono i bisogni, che da dove parti, da dove si parte per fare sanità in un territorio? Poi ci continuano a dire stiamo invecchiando, i bisogni cambiano, ma come cambiano? Ma perché ci togliete dei servizi che erano proprio servizi per gli anziani? Penso alla pneumologia, all'ossigenoterapia. Cioè ce lo togli in questo territorio l'ossigenoterapia e c'è una popolazione anziana che è più del 50%. Scusate la mia. Quando chiude Fiorini definitivamente? Dopo ottobre, visto che rimarrà in sperimentale. Salvatore. Allora, per chi non mi conosce, mi chiamo Andrea Tesini e sono qui come rappresentante di chi si occupa di sanità del mio piccolo sindacato che è SDP. Così, no, nel senso che mi do una qualifica, poi io sono un operatore del SERT dell'ospedale Maggiore. No, riprendo un attimo quello che diceva Nadia con cui ci conosciamo da molti anni. Allora, se io fossi quando chi è dentro le istituzioni si incontra con i dirigenti e del comune, il signor Barigazzi, e dell'azienda che manderà ovviamente Trevisani come capo di distretto, ma vi posso assicurare che per esperienza chi manovra queste pedine non è certamente Trevisani, ma c'è dietro la direzione generale della nostra, ahimè, amatissima ASVA. Il problema qual è? Come diceva lei, noi non abbiamo una serie di dati certissimi, però è ovvio che nel momento in cui veniamo a sapere, mesi fa, come piccolo sindacato, che Fiorini è stata venduta entro il mese di settembre al Ministero dell'Interno, quindi Fiorini era ovvio che venisse definitivamente chiusa, perché la vendita che è stata fatta al Ministero degli Interni, che andrebbe verificata, e parlo con i consiglieri di quartiere qui presenti, andrebbe chiesta quando è stata venduta e a chi e i tempi, ok? Non voglio insegnare niente a nessuno, io non sono un rappresentante politico dentro un'istituzione, né consiglio di quartiere né consiglio comunale, mi sto dicendo, facciamo un gioco delle parti. Prima cosa, quando è stata venduta a Fiorini, tutte le prestazioni che vengono fatte su un territorio che non comprende solo, ma anche Porto Saragozza, che è il mio quartiere, e allora qui c'è Montebello e dietro ci sono delle storie divertentissime che non vi sto a raccontare perché sono pettegure, però è molto interessante dal nostro punto di vista. Quante prestazioni si facevano prima, in quanti metri quadri, con quanto personale, e invece lì che tipo di prestazioni verranno fatte, e vi accorgerete che ci sarà, come diceva Nadia, una riduzione drastica di prestazioni. Poi mi collego con l'amico Bugani, ci conosciamo da tanto tempo, è ovvio che questo sottende a un discorso di quello che non può fare più il pubblico lo do a un privato, e hanno i collegamenti Unisalute per capirci, ok? Per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda il disegno a me è molto chiaro, però io mi pongo un problema di merito e di metodo. Nel merito bisogna che sarebbe l'uopo costringere in un qualche modo a dichiarare non quello che pubblicano su quattro fogli Excel, perché chi lavora in ASL, come diceva lei, siamo oramai abituati, scusatemi, tanto io non ho peli sulla lingua, mi prendo le mie, cioè, a una cialtroneria totale. Vengono fatte delle delibere che il giorno dopo vengono disattese, lo sanno, oppure ci provano, perché poi dietro questi interessi ci sono anche degli interessi privati che vogliono mettere le mani sulla cosa pubblica. Questo, adesso non vi apro questo discorso perché è un'altra storia. Quello che vi sto dicendo io è che sicuramente ci sono gli elementi per far capire ai cittadini, non solo di questo quartiere, che dietro queste operazioni Cioè ci sono delle riduzioni di prestazioni che prima nel bene e nel male, anche in luoghi fatiscenti come Tiarini oppure come Montebello, venivano fatti e che non verranno più fatti. Allora incominciamo a chiedere esattamente spazi, quanti sono, quanti erano, le prestazioni che venivano fatte, il personale che veniva coinvolto, che cosa si faceva, prima ancora andare a discutere ideologicamente se ci piacciono le case della salute o meno, perché quello è un problema che secondo me va messo in secondo ordine. Qui si tratta di ragionare su apro un nuovo servizio che riduce i servizi che c'erano prima. Questo è il mio pensiero, il pensiero anche del mio piccolo sindacato. Io sto parlando. Sono delle altre organizzazioni in città che ti danno praticamente la sua. Perfetto. E questo, io qui conosco due consiglieri del quartiere e vi chiedo, incominciate insieme ai cittadini, insieme a queste assemblee, a ragionare nei termini, adesso io non vi voglio insegnare nulla, ovvio, però io se fosse al vostro posto, numeri concreti della metratura quadra, guardate. Io conosco parecchia gente, dovevano inaugurare, avevano chiesto, a me risulta che avevano chiesto alla Gibertoni di inaugurarla il 9 di febbraio, so che era dichiarato il 3, ma non fa molto presto, ma era un'inaugurazione falsa, perché lì lavori, se io sono stato a vedermi i cantieri 2 mesi fa, lì prima di marzo, prima della fine di marzo, non hanno finito la costruzione. Allora tu, come dicevi Nadia, mi stai prendendo per culo, non a me, la cittadinanza intera. E c'è un'organizzazione dietro queste cose, scusate, se insisto, che sono volute, ok? Poi adesso, siccome stanno andando giù per le scale, si sono fermati perché qualcuno ha litigato su ai vertici, ma se lo facciamo poi veniamo contestati, ci abbiamo le elezioni in corso e allora ci fermiamo e inauguriamo alla fine di marzo. Questo è il meccanismo e rendetevene conto. Ok? Ripeto, noi, piccolo sindacato, quello che ci importa è i numeri che c'erano prima di prestazioni, di personale, di dotazione organica, le prestazioni che venivano fatte, le prestazioni che verranno fatte là. Ci risulta che un 30% in meno c'è garantito di sicuro, e forse, come dice Nadia, qualche cosa in più. Chiaro? Ma scusate, io mi chiamo. Sì, c'era Sandra e poi c'erano persone che stanno prenotando. Vai, alzate il braccio. No, ma ci dica come si. No, mia è solamente una cosa, una riflessione che faccio io, che sembriamo che siamo tutti dei santi e tutti. Io sono un libero cittadino, non ho una squadratura politica. Ma io penso. Ormai siamo agli sgoccioli, l'inaugurazione fra un po' c'è, non credo che ci possano essere delle manifestazioni o qualcosa che possono cambiare già quello che hanno deciso. Però il fatto che l'hanno deciso non è che l'hanno deciso ieri o l'altro ieri, l'hanno deciso già ancora prima di fare i fondamenti di quello che veniva. E chi l'ha deciso la sanità, l'ha deciso il governo regionale, l'ha deciso i sindacati, piccoli o grandi che sono, cioè sono tutti responsabili, non solamente. E allora, voglio dire, ci prendiamo per il culo perché magari siamo qua a discutere. Tutte le case della salute che sono stati fatti, i servizi, sono sempre stati tagliati dappertutto. Vedi Borgo Panigale, vedi Casalecchio, vedi in tutti quelli che sono stati aperti, sono stati tagliati. Cioè, adesso veniamo qua a fare, ma la colpa è di tutti. Io non credo che ci sia destra, centro o sinistra. Siamo in mano a dei barzulloni, a degli irresponsabili che giocano sulla nostra pelle. Cioè, che siano sindacati d'opposizione, partiti d'opposizione o chi governa, sono tutti culo e camicia che ci prendono in giro sulla nostra salute. Cioè, se decidiamo di andare a battere un monumento che stanno facendo e far rimanere le cose, sono il primo ad essere là. Però adesso che discutiamo cosa cambia? Cosa cambia? Facciamo la manifestazione, facciamoci sentire con i giornali, con tutto quello che c'è, però che ci illudiamo che non aprono o che non tolgono i servizi, siamo già alla trasmissione, davvero non è mai troppo. Però possiamo pretendere quello che c'è scritto, perché dovrebbe essere. Io so che tagliano nella mia ignoranza anche il centro. La strategia potrebbe essere quella. Tagliano anche il centro di disabilità a tutti, da chiarire, non solo nello sport. Il caso della salute stanno partendo adesso, quindi è un discorso di lunga lena. La battaglia inizia adesso, cioè... Ma dai, andiamo avanti. Sandra. Poi Paola, Sandra. Io penso che ci sono due piani diversi. Un conto è riuscire a capire cos'è la casa della salute e cercare in questo momento, forse un po' più insistente, per cercare di partecipare di più, per farla diventare quantomeno il più possibile simile, uguale, cioè non sarà mai una casa della salute, insomma. Un conto secondo me invece sull'altro piano che sono proprio delle cause reali, ma anche che c'è una negativa, no? Per cui alcuni servizi che non ci sono perché vengono messi degli altri servizi che potrebbero non andarci, vedo il mio banalmente, no? Perché chiaro, io faccio di terapia di mio. Noi andiamo nella palestra delle ostetriche, che è stata fatta per loro perché è piccolina, in cui loro probabilmente avrebbero fatto il loro lavorino bene. Noi non c'entriamo, a Puccia Spintoni c'entriamo, per cui tant'è che appunto ci hanno detto che noi non abbiamo uno spogliatoio, ma ci sono i spogliatoi per i pazienti, perché è ovvio che le donne gravi per le scambio lo stesso, che no, perché non ne hanno bisogno, noi abbiamo bisogno di cambiarci, lo sappiamo loro, ma ci hanno detto cambiatevi nella... Per cui secondo me i livelli sono due, uno come diceva lui, arrabbiarci perché appunto ci sono delle cose che non vanno e che magari vestiti in un altro modo con un po' di testa potrebbero annocchiare. E da quell'altra parte invece se magari riusciamo a partecipare come popolazione a una gestione diversa, forse facciamo in modo che questa casa della salute assomigli un po' più a una casa della salute piuttosto che è difficile, ma magari. Grazie Sandro. Loretta. Allora, rispetto a tanta felicità sensibile. Noi quando abbiamo richiesto il conto come comitato a Trevisani, allora per chi non lo sa, cosa fa il direttore del distretto? Perché forse non siamo tutti. Il direttore del distretto, della UTO è divisa in tanti distretti, noi siamo il distretto di città, poi c'è il distretto di Roma. Se lo sapete tutti non lo dico, ma non qualcuno faccia perplesse. È colui che in qualche modo deve organizzare e pianificare l'erogazione dei servizi. Detto in termini più semplici possibile, è un pochino più complesso, però in qualche modo è quello che ha questo compito. Deve organizzare, far sì che vengano erogate le prestazioni ai cittadini rispetto poi a delle pianificazioni, a dei bisogni, alla rilevazione dei bisogni, che su questo ci si basa su dei documenti fatti dal comune che hanno due o tre anni, perché gli ultimi documenti sono documenti di 2 o 3 anni fa, datati 2 o 3 anni fa, per cui voglio dire, sono sempre un po' così. Questa è la mia prima. No, rispetto a quello che dicevi tu, nella lettera che ne ha fatto questo famoso dottor Trevisani, noi avevamo chiesto molte delle cose che tu hai detto, perché non è che siamo nati stamattina, capito? Alcuni di noi, di fuori sanità, nati per la tanta messa. Ecco. E la risposta è quella che mi ha detto Brunella, cioè è stato detto più avanti, praticamente. Poi una cosa che sulla quale almeno personalmente sono rimasta male, mi ha fatto molto arrabbiare, è che a noi come comitato di cittadini, dove dentro c'è anche gente di forze politiche, ma c'è di tutto dentro, ci si viene detto più avanti. Però domenica scorsa, presso una sede del PD, che va benissimo, ognuno fa quel che vuole, viene fatta un'assemblea con i vertici della USO e con l'assessore del comune di Bologna sulla casa della salute. Allora mi prendo in giro come cittadino. Questo a me ha fatto molto arrabbiare. Uno, perché io non essendo iscritta a nessun partito, per cui nessun partito neanche al PD, a me non arriva comunicazione. Io potevo essere interessata personalmente. E questa è una cosa grave. Io credo che su questa struttura, io sono meno pessimista di lui, cioè allora io sono una molto preoccupata della deriva verso il privato, che viene sempre più forte in sanità, e sono d'accordo. Dall'altra che ci sono di quelle che pensa, oggi come Telosco, non vi sto a spiegare che cos'è, perché sono dei corpi letto, gestiti dai medici in linea generale, all'interno del caso della salute, sono proprio, a mio parere, che già, viene già applicato in realtà più varie di montagne, in città non lo realizza più tanto, sono una di quelle che proprio quello che la casa della salute organizzata, secondo quelli che sono i principi, a mio parere è invece una bella scommessa, in particolare a fronte dei problemi della cronicità che noi abbiamo, sempre più forte, e delle fasce molto fragili della popolazione. È chiaro che io credo che poi noi come cittadini dobbiamo stare zitti. Sicuramente alle signore arriviamo tardi, e vabbè, arriviamo tardi, però questo non vuol dire che stiamo più a martellarci. Io credo che noi dobbiamo essere presenti ed esserci, fare sentire la nostra voce, assolutamente, perché se vogliamo cercare di salvare qualcosa, io sono di quelle che all'altra assemblea si ricordano, abbiamo anche discusso, io mi preoccupo meno dei metri quadrati, io voglio sapere cosa ci va dentro in quell'ambulatorio. Perché voglio dire, potrebbe essere, scusa, fammi finire, potrebbe anche essere che oggi un ambulatorio è usato solo la mattina, domani quello viene usato mattina e pomeriggio, non lo so. Però la cosa che a me non piace, mi preoccupa, che all'apertura l'unico documento che noi siamo riusciti ad avere è stato andando e va riconosciuto da dei consiglieri regionali con l'accesso agli atti, che dopo un mese ci hanno dato dei documenti che adesso io non li ho qua, che sono smentiti, sono delle tabelle con molto vaghe, molto raffazzonate, che però sono già smentite da quello che noi sappiamo dagli operatori. Cioè, per quello che dico, io credo che sia fondamentale come cittadini essere presenti, esserci e non far passare niente, perché veramente io sono di quelle che credo che possa essere, si parla di sanità attiva, di un approccio attivo per pazienti, si parla di un cambio di paradigma, come si diceva prima, che proviamoci per arginare questo disastro che sta diventando sempre di più la sanità italiana, e io su questo sono d'accordo. Però dobbiamo esserci, cioè non possiamo restare fermi a vedere cosa succede, ecco. E tamminare, a me dispiace che Brunella debba andare da sola a 13. Io non sono nessuno, ma io sarei venuta, avrei tentato di dimagrire e fare la mostra della situazione, ecco. Perché voglio sentire cosa dice. Ma anch'io ho ribadito questo concetto, che è un incontro che non esiste, cioè la cui connotazione, non so, ripeto, non è una commissione, quindi non è una sede né decisionale ma neanche di confronto. È come se fossimo stati invitati a una festa dove c'è il dottor Carnevale, questo rispetto a quello che dicevi tu, anche io trovo vergognoso non che un partito, anzi è una cosa lodevole, organizzi una sede pubblica di informazione, trovo vergognoso che le istituzioni, cioè l'assessore eccetera, prima di parlare con i cittadini, cosa che non hanno mai fatto, lo vanno a fare in una sede di partito, chiaramente confondendo quello che è il partito con quello che è. Qualsiasi partito sia. Sì, tra l'altro mi hanno segnalato, questo lo voglio dire, perché è di mia grande arroganza, e lo dico proprio anche come cittadina, perché non me ne frega niente, che a fronte di chiedere la risposta che eri tu Flavio che me l'hai segnalato, che a un certo punto qualcuno ha chiesto l'ortodonzia se c'era o non c'era, dice ci dobbiamo lavare tutti i denti. Questa è stata la risposta dell'assessore e questa è la prova del mondo. Oh, Morena, Morena. Discorso della privatizzazione, il timore grosso, e io lo suggerirei come domanda a quell'incontro che hai, insomma, privato, non so come definirlo, perché c'è una reale preoccupazione. Io lo segnalai anni fa, quando ci fu un incontro preliminare di fraternità PD, allora c'era Fioritti come direttore sanitario e c'erano i preliminari di questa casa salute, così, e fece anche delle domande rispetto appunto, ma funzionerà come da filtro per evitare gli accessi dei codici bianchi, pronto soccorso, la diagnostica e non so, i punti prelievi, l'urgenza, perché ci sono tanti punti prelievi privati, costi convenzionati con l'SL, che uno se paga il ticket, ovviamente se è esente, vabbè, ma se paga il ticket è praticamente uguale, va a farsi il prelievo, il giornata c'ha l'esito. Certo. Dico, non è che concorrenziale perché chiaramente no, no, no, guarda, tranquilli. Adesso a maggior ragione non se ne parla neanche. Sono stato domenica al PD perché era scritto in priorità nella locandina, quindi se uno ci passava, leggeva incontro, e poi ci sono anche dei volantini verso l'USL. Erano i volantini all'interno dell'USL. Sono andata e lì l'assemblea era plenaria, prevalentemente anziana, in utenza anziana, politica, dove ci sono le spiegare. Ovviamente la sede non è, era una sede popolare, quindi dal mio punto di vista cioè, le cose che avevo in mente di chiedere erano sugli altri livelli, quindi, però erano talmente chiari, uniti a livello sia politico che dirigenziale, perché Gibertoni, Barigatti, Trevisane, presidente del quartiere, consigliere comunale, hanno fatto un muro e hanno detto questo è un bel pacchetto regalo, bellissimo, nuovo, funzionale, bisogna ragionare in un'ottica diversa, la presa in cura che il paziente verrà accompagnato, questa persona anziana cioè, verrà accompagnato da chi? Cioè, dove? Non è chiaro, vabbè certo, verrà accompagnato da associazioni, volontari, comitati, questo paziente proprio poveretto, pianissimo, da solo, perché adesso viene la realtà che tutti sono da soli, ci pensiamo noi, la casa salute, bella forte, e c'è il discorso dei medici generali che mi collego ancora a privati, non ci va nessuno e continuano a dire che ci sarà, la pediatria c'è, perché è un'altra, funziona in maniera diversa la pediatria, ha sempre funzionato in maniera diversa. I medici di base non ci vogliono dare, e che io sappia, a ieri, non dico oggi, a ieri, c'è un medico che ci andrà, che si è preso i suoi spazi e gliel'hanno concessi, continuerà a fare il medico curante. Dei suoi. Mi dispiace dirlo, solo anche incompetente, incapace, perché noi siamo fianco a fianco e non riusciamo a stare in rete per niente, insomma, una situazione un po' perfetta. E la Gibertoni ha detto, ci saranno chiaramente non tutti i medici, entreranno dalla salute perché il quartiere, qui e là, però ci sono già 3-4 medici. E il mio sospetto è, collegandomi al discorso che diceva lui, medici che assumono privati, sì. Di base che assumono privati, ma non è stato esplicitato, e questo è pericolosissimo, perché già abbiamo, e mi dispiace, però io ogni giorno con il medico mio curante, purtroppo i medici di base non funzionano, cioè ce lo dobbiamo dire, non funzionano né a me che sono insomma bene o male su bene di salute, né sugli anziani che hanno, necessitano non solo di ricette, hanno bisogno di veramente prese in carico continue di un percorso. Si devono sbattere da soli se c'è, se hanno dei parenti, come nel caso la figlia, o qualcuno che gira e fa tutto il percorso, dalla cardiologia, la patologia, fanno tanto. Ma poi è agguerrita dalla mattina alla sera, se dovete portare fra i denti. Brava. Ma il percorso cardiologico, lo sapete, per lei è un disastro, il medico non ti aiuta. Questo ciò vale per tutti i cronici e non solo per gli anziani. No, nel senso che in prospettiva da cara salute che c'è questa presa in carico, l'accompagnamento, il medico improvvisamente, il medico in rete, non è facile evitare, è tutto un discorso che va verso la privatizzazione. Un anziano che c'è i soldi, sopravviverà, un anziano povero. Vabbè, però lui ha fatto vedere le cose. Un'altra cosa importante invece della privatizzazione o dei medici è il discorso che non viene fuori. Villa Erbosa, agli occhi di tutti, sta mettendo a posto, dopo anni che ha pagato multe perché fa parte già del circuito delle case convenzionate. È un lager, come Villa Chiara, sono due lager legalizzati. Anche quello. Dopo Villa Chiara ci fa lavorare, soprattutto siamo. Che non c'è nessuna diagnostica a casa della salute, venga a Casalecchio, l'hanno presa dentro alla casa salute come se fosse una cosa privato, bella e tranquilla. Privato. Non vorrei che la diagnostica passa tutto a valle. Ma c'è la diagnostica anche a CTR, a Casalecchio. CTR che ha già tutto la casa privata. Allora, i soldi per strumenti nuovi, andate a vedere la radiologia com'è, come funziona territoriale. Come funziona la radiologia territoriale? Luisa. Praticamente è già stato detto tutto di più. Io dicevo, ma non voglio insegnare niente a nessuno, prima di quell'incontro io due righe scritte sia al presidente Ara che a quello che dovrà partecipare, che sarà io due righe con scritto, io vengo alla riunione, glielo dico così, però avrei piacere che a quella riunione mi si dessero le risposte sui ambulatori che ci sono adesso e su quelli che ci saranno domani. Ecco, così sanno già che si vuole avere delle risposte, tutto perché i tempi stringono, siamo già, non c'è più tempo. Allora, la possibilità di fare delle domande ottenendo delle risposte relativamente, sempre, perché poi alla fine temo che in quella sede si faranno e li faremo, ma non li avremo perché sarà presentato. No, era quello che diceva Giuseppe sul versante, diciamo così, dei rapporti istituzionali, cioè quello di chiedere di fare intanto l'assemblea di quartiere e lì anche i singoli cittadini potranno intervenire e fare delle domande, cioè nel consiglio di quartiere aperto che si farà, sì, perché probabilmente però c'è un mese di tempo, dico bene, insomma, allora sia ai primi di febbraio, se hanno un mese di tempo, andiamo a fine marzo, se l'inaugurazione è il 14 abbiamo già finito di parlare. Sì, ma guarda, realisticamente Luisa, non è che non riusciamo a bloccare quello che stanno facendo adesso, segniamo. Scusate, no, Luisa ha finito. Luisa ha finito? Sì, sì, ho finito. Okay. Martina. No, io in realtà faccio chiedere sempre in merito a questo, cioè a livello di processo come sarebbe più strategico muoversi, nel senso che se c'è l'intenzione di costituire un'assemblea. È molto problematico che venga chiamata una persona a rappresentanza di un'assemblea, perché c'è un, cioè nel senso, non perché sia un problema questo, però secondo me bisognerebbe capire cioè, tutto che cosa è più strategico e anche per dare un po' più voce, no? A quello che si sta facendo su questo, però non so se ci avete, cioè, se voi appunto avete ragionato, perché tu dicevi prima. Noi, cioè io rispondo positivamente di andare appunto come in qualche modo capogruppo eccetera, però dopo comunque raccoglieremo le firme per fare questa consiglio aperto. Esatto, questo consiglio aperto con Ara, quindi diciamo a ragionare in questo. Cioè, allora l'idea che avevamo noi, ma è una scelta che dobbiamo condividere e fare insieme, era quella di costituire in qualche modo formalmente un'entità. Allora, e il discorso è questo: se noi per esempio l'incontro a Trevisani l'abbiamo chiesto, diciamo così, facendo, chiamiamolo una forzatura, non è una forzatura in realtà, ci siamo presentati come assemblea di cittadini con un nome che dava la sua email a disposizione per poter interloquire e poter rispondere, quindi il nome di una persona, per cui la cosa che avevamo messo all'ordine del giorno era di chiedervi, se alle persone, qui presenti, di costituirci in comitato e di formalizzarla, insomma, questa cosa. E quindi come comitato, il comitato si può partecipare agli incontri istituzionali e anche richiedervi, avendo, come dire, una sua entità. Cioè di fatto, nel senso che si decide, cioè il comitato si può fare in varie forme, cioè nel senso che noi lo possiamo anche decidere questa sera, non dobbiamo andare al notaio, si decide e poi e chiaramente organizzativamente si decide come articolarsi, insomma, se c'è una o più persone, però intanto si è formalmente costituito e ci si presenta come tale, si decide, noi abbiamo usato anche lì abbiamo fatto un ammetto dunque in Gmail, ma si può cambiarla completamente, si decide chi ne fa parte, lo possiamo decidere insieme, per questo dicevo. Sì, sì, no, perché io riflettevo sul fatto che uno mi sembrava molto interessante la suggestione all'inizio di cioè, non chiudersi nel proprio articello, quindi certo. Questo è un processo che avviene in tutto il mondo, ma avviene sicuramente in tutta la città metropolitana e cioè mettersi in rete e magari cioè, se si va a costituire anche qualcosa di più formalizzato, cioè più ampio, più di solito ha potere margine di negoziazione, quindi secondo me varrebbe la pena considerare questo aspetto. E l'altra cosa è, cioè, siccome poi costituire un organismo comunque appunto richiede poi dei compiti, delle funzioni che vanno strutturate, eccetera, eccetera, secondo me si può valutare se è più funzionale questo o è funzionale, cioè, perché appunto io poi nel merito di cosa può richiedere o non richiedere un comitato, non lo so, cioè magari sarebbe interessante anche avere tutte le informazioni per capire cosa è più conveniente fare, perché cioè, se no uno può anche essere appunto autodefinirsi assemblea, perché per questo bisogna avere informazioni per nessuno e rete di realtà, perché già qua ci sono sindacati, ci sono associazioni, ci sono. Allora sarebbe importante in qualche modo è lo stesso, cioè nel senso che il comitato in genere nelle forme istituzionali è quello che viene riconosciuto. Si può anche decidere di insistere sulla forma assemblea, è chiaro che però noi comunque ci dovremmo comunque organizzare di conseguenza, perché ci deve essere, come dire, bisogna sapere effettivamente chi fa cosa, come, cioè, quando, no, chi deve avere. E quindi decidere per esempio insieme un email, cioè queste funzioni tipicamente organizzative, e questa secondo me è la sede adatta, cioè quindi. Stasera, no, lo dico solo perché di solito quello che poi succede è che una volta che si costituisce qualcosa un po' si perde potenza, cioè di solito nelle traiettorie funziona così, non perché io non sono contraria assolutamente, però penso che cioè in questo momento c'è proprio bisogno di allargare, no? E di creare, cioè, il più possibile sia consapevolezza, sia cioè, informazione, sia mobilitazione. Quindi secondo me anche quando si costituisce un organismo e poi si delega a quello di fare questa cosa, quello di fare quell'altra, finisce che ci sono quelle tre persone, quattro persone che fanno tutto e si perde potenza. Quindi è una cosa da tenere in considerazione. Poi io non sono per nulla, appunto, ripeto, contrario a costituire un comitato, quello che è, però cioè, secondo me va sostanziato da degli obiettivi e una funzionalità di questa cosa. E il discorso però per la diffusione delle informazioni inevitabilmente è anche per, cioè parliamoci chiaro, ci siamo assunti un po' noi questo ruolo. Allora va benissimo fare rete nel territorio, però se noi significa che abbiamo bisogno anche di gente che materialmente fa il volantinaggio e che materialmente non sia solo di coalizione civica, detto come da certo. Questo però se vogliamo uscire dalla forma, noi ci teniamo molto, perché tanto quello che noi dobbiamo fare, che vogliamo fare, lo facciamo comunque, non so se a livello istituzionale. Se la rete di cittadini, l'interlocuzione dei cittadini, l'assemblea dei cittadini ha un valore sicuramente diverso, ecco, cioè molto più. E quello che secondo me ci vorrebbe, ripeto, credo che questa sia la sede per farlo. Quindi io per questo dicevo, a un certo punto, se chiudiamo la discussione, vediamo praticamente chi è disponibile a questa cosa. Emi. Io sono Emily Pence, sono consigliera di coalizione civica. In realtà non volevo intervenire all'inizio perché mi trovo sempre perfettamente rappresentata da Brunella e dai compagni del Nabile, ma il dibattito mi ha molto stimolato e quindi provo a portare un punto di vista. Ovvero, secondo me, tutti gli interventi che sono fatti questa sera in realtà viaggiano in parallelo e la partita è da giocare su più fronti. Ovvero una cosa non esclude l'altra, vi spiego meglio. fare analisi, fare inchiesta sociale, chiedersi qual è la migliore declinazione di una casa della salute, qual è la sua origine, qual è il primato del poliambulatorio versus casa della salute e viceversa, è un punto chiave e importante del processo che secondo me va portato avanti. Come fare anche contestazione e fare una nostra battaglia, una nostra lotta su questo fronte è da fare e non significa che stiamo facendo opposizione sterile. Dal mio punto di vista come coalizione civica, quello che dobbiamo fare è portare adesso la battaglia innanzitutto in un'audienza conoscitiva in comune per chiedere, come era anche stato sottolineato da altri interventi, quali servizi vengono proposti, quali no. Quali sono le differenze precise. Secondo, demandare all'amministrazione un dovere di informazione dei cittadini a cui finora si è colpevolmente sottratta e, come abbiamo ricordato, invece ha portato avanti nelle sedi interattive. Quella, lo vogliamo ricordare, non è una sede adeguata. Ormai ci siamo abituati a tutto ciò, a quello che stanno portando avanti su tutti i fronti, ma non è il modo corretto di farlo. Secondo me, anche solo già queste due cose sono importanti. Fare un consiglio di quartiere aperto è un'altra sede istituzionale dove tu puoi portare tutte queste cose, sia il ragionamento sull'origine, su come si è arrivato a questo percorso, che cosa vorremmo invece, sia cercare di arginare una situazione che non ci piace, andare a demandare con la legge regionale quello che effettivamente dovrebbe prevedere una casa della salute in un quartiere che ha più di 30.000 abitanti, infatti il doppio, è una cosa che noi effettivamente possiamo giocare, una leva che possiamo giocarci, per cui secondo me tutte queste cose sono da portare avanti una insieme all'altra. Io non sono un amante dei comitati, ovviamente se questa è la decisione dell'assemblea dentro assolutamente, però secondo me siamo ancora capaci di portare avanti queste battaglie tutte insieme. Voglio ricordare che è proprio qua a Navile che si è riusciti a fare una battaglia di questo tipo sulla biblioteca Animal Servizi, che proprio pochi giorni fa l'assessore Lettore, il neo assessore alla cultura, perché sapete gli hanno cambiato le deleghe, si è rivendicato come una delle prime cose che farà all'inizio del suo mandato, chiamando la Miriam, cioè anche la signora Ridolfi, cioè il consiglio, non so, cioè c'è proprio un piano che ci dobbiamo portare, per cui le battaglie dei cittadini possono avere una voce, e guarda caso in un anno di lavoro dal basso, persistente, con veramente molto impegno, che tra l'altro è nato qua alla Vile, è riuscita a diventare una battaglia che addirittura l'amministrazione che ha portato avanti ora sta facendo il giro dall'altra parte, cioè, ma forse quella privatizzazione non ci è riuscita tanto bene. Per cui è vero che ormai è già caso della salute, il processo è iniziato dal 2006, non potremo cambiare completamente lo stato delle cose, però io voglio anche essere positiva sul fatto che tutte le cose che possiamo fare, tutte le battaglie che vanno giocate, le giocherei e le porterei avanti parallelamente, non escludendo né l'uno né l'altro. Anche la proiezione del mio documentario. Certo, perché ti dirò che è stato censurato dall'Espresso, dal Fatto Quotidiano, dal giornale di destra e di sinistra. Chiedo che questo documentario venga fatto vedere qua. Chi l'ha visto, la signora l'ha visto, può dire com'è. Se va bene, è finito. Prima di. No, no, per Paolo. Paolo, sono contentissimo, sono un altro molto più autorevole. Paolo, ci puoi dire parte poi mentre parli del 20 febbraio con l'appuntamento, così lo diciamo il candidato? No, non volevo rovinarti la scaletta. Ho capito che su quel 20 febbraio c'è stato un problema. Ah, ok, allora scherzo. Comunque, non volevo neanche intervenire, ma alcune sollecitazioni da parte dei presenti mi hanno stimolato. Però lasciatemi spezzare una mezza lancia, lasciatemi fare a favore del sindacato, perché il sindacato ha fatto parecchi errori, se non altro a livello nazionale ha fatto un errore gravissimo sulle assicurazioni sanitarie, che è un massacro e sarà un massacro per la sanità pubblica. Ha fatto un altro errore a livello regionale perché ha accettato praticamente in toto l'ultimo piano sottosanitario regionale e l'ha criticato su pochi punti. Gli sono scappati mi sono scappati tutti gli indirizzi per quello che riguardano gli inserimenti nelle graduatorie del CRA, dove è uscita una puttanata spaventosa, e io nel CRA sono in casa di riposo per anziani, e qui forse nessuno di voi è informato bene, ma se volete facciamo anche una riunione per informarvi su questo, perché tutti abbiamo degli anziani, o se non altro io sto diventando anziano, se non lo sono già. Quindi gli è scappata anche questa. Ma sulle case della salute devo dire che io ero presente a un'assemblea che c'è stata nel marzo dell'anno scorso alla Camera del Lavoro sul caso della salute, e gli indirizzi che ne erano usciti erano indirizzi interessanti. Adesso li stanno stravolgendo. Però guardate che siamo appena agli inizi. Cioè è una battaglia questa che va portata avanti. Purtroppo qui, nello specifico del Navile, c'è scappato un po' di mano, è partita tardi, ma Bologna e la città metropolitana dovrà avere un riassetto generale sul piano della sanità e sul piano sociosanitario. Quindi le battaglie che adesso stiamo iniziando a fare qua dentro e nel quartiere varranno per tutta la città e per tutta la città metropolitana. Siamo agli inizi e le dobbiamo portare avanti. Cioè, quindi io personalmente dico ben venga questo comitato, sarà da estendere, ad allargare a tutta la città. Attenzione, che però i piani di battaglia di lotta sono diversi. Le case della salute si sono strutturate bene, portate avanti bene, con intelligenza, e possono avere un'utilità notevole, però non devono essere sacrificate con dei tagli come probabilmente andranno a fare. Ma in se stesse l'idea, sono portatrici di buone idee in se stesse. È chiaro che il sindacato si era preoccupato di dire in modo molto chiaro che i servizi che passavano dagli ambulatori e dai poliambulatori dovevano passare in toto le case della salute. Questa è stata la prima cosa che il sindacato si è raccomandato. Tenendo presente che le case della salute dovrebbero avere anche il compito di fare un ingresso in territorio sul piano sociale, certo, e di fare delle analisi in rete sul piano sociosanitario del territorio per vedere le gravità che ci sono, per fare la prevenzione, per curare la cronicità. Cioè, voglio dire, dovrebbe avere un compito di studio del territorio dove si trova, e di non solo di studio, ma anche di inserimento reale della dimensione sociosanitaria sul territorio. Quindi potrebbero essere importanti. Però la battaglia, e quindi non dobbiamo portare avanti, perché diventino realmente questo. Perché se non diventano veramente questo, allora voglio dire, non hanno senso. Sul piano della privatizzazione della sanità, e qui è vero, la stanno privatizzando, e qui non ci piove. Basta vedere le assicurazioni sanitarie come stanno procedendo a larghi passi. È anche vero che stanno costantemente tagliando, e se si scende sotto quel 6,5% del PIL che diceva prima il medico, la sanità entrerà in un buco nero dal quale non uscirà più. Ed è già preventivato che andranno sotto. Quindi la battaglia non è solo locale, ma ricordata una battaglia politica e nazionale. Ok, Enrico. Okay. Ne raccogliamo un altro po', poi magari lo chiudiamo. E comunque, scusate, mi sono solo dimenticato di una cosa, il discorso non è solo delle case della salute, perché il discorso va ampliato a tutta l'organizzazione della medicina bolognese. Bisogna rivedere i pronto soccorso, bisogna rivedere tutta la problematica della guardia medica collegata alle case della salute, allargare le fasce d'orario dei medici, si devono riunire in medicina di gruppo, con le cartelle cliniche messe in rete, perché sennò non servono a niente. Cioè, voglio dire, c'è un discorso generale da fare sulla sanità metropolitana, che è molto complesso. Allora io mi rivolgo anche a Emily, perché mi piacerebbe che questo discorso sulla complessità della sanità metropolitana fosse portata in Consiglio Comunale, uh-huh, e chiedere ai nostri governanti di esporre alla cittadinanza qual è la loro idea sul futuro del settore sanitario cittadino, perché non ne parlano mai, e invece devono iniziare a fare. Cioè, quindi si può anche preparare, se volete, prepariamo un discorso delle interpellanze da portare in consiglio comunale. Okay. Si può mettere d'accordo anche per fare. Proprio per avere una visione globale, però, non solo tipica, localizzato su questo territorio. Ok, va bene. Io in passato ho partecipato a una riunione dove c'era l'assessore che spiegava le case messe in salute, come sarebbero funzionate, come sarebbe stata fatta. E a me parla una bella cosa. Questa sera ho sentito tutta un'altra cosa. Non ho capito la verità, cioè, da una parte o dall'altra. Allora sono d'accordo, come ha detto la signorina, di fare un incontro pubblico dove c'è una parte che dice una cosa e l'altra che dice l'altra cosa. Altrimenti vado via perché non ho capito niente. Oh, le sono state raccontate prima o le dite stasera? Non lo so, non ho capito. Per quanto riguarda il giornalista, vi dico, io sono un volontario, lavoro 8-10 ore, non ho sindacato che mi controlla, faccio volontariato, giro tutti gli ospedali attorno a Bologna e Bologna. Mi permetto di dire che ci sono dei signori ospedali, cominciando da Bazzano, San Giovanni Persegeto, Budrio, Bologna, San Camillo, Casa dei Risvegli, Bellaria, Sant'Orso, Di Maggiore. Io ci sono dentro tutti i giorni. Quindi io non so detto di comprare. Lei ha fatto tutto una sanità disastrosa a Bologna, io le dico. Guardi il mio documentario. Va bene, non l'ho visto, non l'ho scritto, Io tutti i giorni parlo con gli assessori che arrivano in aereo e in treno a Bologna e li porto dove hanno bisogno di andare. A Vergato c'è andato che lo chiudono. A Pavullo c'è andato che lo chiudono, a Morna che lo chiudono, a Mornella che lo chiudono. Io le dico, io tocco con mano, io grosse lamentele non le sento. Loiano, ne chiudono, in Emilia Romagna chiudono 32 ospedali. Quello è un altro. 32. Quello è un altro, io parlo di Bologna. Finisca, dico. Facciamo finire di quello. Io parlo Bologna dintorno, io le dico, io. A me non sembra che la cosa sia così disastrosa, anzi, se tutti i giorni vengono da tutti i parti, un motivo ci sarà. Beh, sei peggio da me. Enrico, nel consiglio aperto di quartiere ci può essere questa possibilità che diciamo qui. Cioè, nel consiglio aperto, se il presidente di quartiere ci fa fare il consiglio aperto, ci sono dirigenti. Ha detto di no nella sede, quindi ha detto di no. Che non lo farà il consiglio. Però sai con i tuoi cittadini. Ha detto che farà un'assemblea con i cittadini, ma il consiglio di quartiere aperto no. Ah, perché? È la stessa cosa. Ha detto, perché gli ho chiesto io, dopo la teoria di Balle, la tecnologia di Balle che ci hanno raccontato, compresa quella dei denti e della prevenzione. Che Costa Aremi mi ha risposto alla richiesta di un consiglio aperto da parte di alcuni cittadini che raccoglievano firme, che l'assemblea di quartiere costa troppo. E ha detto che costa troppo anche la seconda domanda che gli ho fatto, cioè i parcheggi per i denti e la viabilità cambiare. Ha detto costa troppo, ha chiesto a Aremi, non ho capito. Faremo una colletta. No, guarda, raccogliendo le 200 firme, purtroppo ce la deve fare. Sono obbligato. È obbligato a fare. Ci potrà mettere un mese. No, infatti, come le uscire firmate, ci metterà un mese. Ci può mettere 30 giorni, però alla fine dei 30 giorni deve fare. Docente. Diana, quante firme abbiamo già? Ne abbiamo un centinaio, fuori da quelle che penso che raccoglieremo stasera, ma il 3 febbraio, come dicevo, facciamo quest'altro volantinaggio per raccogliere, io credo che dovremmo riuscire ad arrivare. Allora, gli altri lo specifico il 3 di febbraio, dove, a che ora ci posso essere anch'io? Ma le date di lasciate i nomi, anzi, Liana, scusa, Liana, sì, volevi dirci qualcosa? No, volevo dire Enrico, che avevo ascoltato Enrico. No, io non ho inteso quello che diceva. Quando si parte alla prossima fase operativa. Il discorso apocalittico però non ha messo in discussione la sanità come era Bologna e io devo dire che anch'io sono, almeno per quello che di cui non ho potuto usufruire, sono sempre stata contenta, non era quello, secondo me, il discorso che lei ha fatto. E cioè, io volevo fare delle domande per l'incontro che farai. E c'è scritto in quelle foto che avete fatto circolare sulla Casa della Salute, primo piano ambulatori specialistici, quali sono? Non ci sono, non so piano. No, ci sono quelli che no, sono però... quelli della delibera. Sì, però non sono specificati con la... il cartello che c'è nella Casa della Salute, non so specificati. Sono quella, la cosa che abbiamo preso con l'accesso agli altri. Poliana ci ha regalato domande. Delle variazioni. E poi anche io sui medici di base volevo avere informazioni riguardo quando ce ne saranno, perché alcuni sono lì, Allora, facciamo solo due minuti di piccola sintesi e poi magari passiamo proprio a perché già sono interventi di Nadia, Antonio voleva prendere parola e anche Arrigo. Primo, proprio due minuti. Uno è riguardo la cosa che diceva Martina, che sottolineavano anche altri. Noi abbiamo avuto, forse più di tutti, noi abbiamo avuto un'esperienza precedente che è stata quella appunto di una battaglia politica contro il processo di esternalizzazione della biblioteca Lame, questa a pochi metri dal posto dove siamo adesso. E, ci siamo formati, non abbiamo mai dato vita a un comitato, cioè siamo sempre stati un organismo molto eterogeneo, molto inclusivo, aperto, e da questo punto di vista non abbiamo avuto problemi, per cui secondo me replicare in qualche modo una forma un po' confusa, ma paradossalmente nel senso positivo, di organizzazione politica appunto come un'assemblea, senza appunto chiamarsi comitato, qualcosa anche di come dici tu, che magari può offrirsi a di processo anche discussione, secondo me è la cosa migliore, in quel caso ha prodotto dei risultati positivi. E dico appunto risultati positivi per rispondere un po', no, alle sollecitazioni anche critiche del nostro, no, libero cittadino. Le ha prodotte nel senso quello che diceva Emily, anche lì il, come dire, la biblioteca Lame era già esternalizzata, non si poteva dormire. Però, come appunto sottolineava prima il consigliere comunale, sono stati fatti dei passi indietro anche rispetto alla posizione ufficiale del neo assessore alla cultura. E da questo punto di vista, secondo me forse la cosa migliore sarebbe seguire un po' quei due livelli che ci diceva Vigo. Cioè, da una parte c'è un livello che è quello che sottolineava lei, Andrea, cioè il fatto che dobbiamo essere preoccupati dei servizi fisici, materiali che andranno nella nuova Casa della Salute, e quindi concentrare l'attenzione sulla Casa della Salute Navile. È lo stesso problema che, per esempio, abbiamo avuto anche per la biblioteca Lame. Da una parte avevamo un problema, come dire, concreto e specifico, quello dell'esternalizzazione di Lame. D'altra parte sappiamo che dobbiamo combattere una battaglia più complessiva a livello cittadino, cioè fermare il processo di esternalizzazione. La prima battaglia non potevamo che fallire, nel senso che, come dire, quella cosa era già decisa, ma sulla seconda, come dire, qualcosa siamo riusciti a fare. Vale la stessa cosa anche per questa partita, cioè c'è un livello che è quello, secondo me, giusto quello che ci dice Arrigo, della Casa della Salute Navile, che ci andrà dentro, cominciamo a preoccuparci, e dall'altra parte però dobbiamo allargare questo discorso, dobbiamo allargarli, come diceva Marina, a tutte le case della salute per quanto riguarda i sei quartieri, i sei distretti, come diceva Andrea, ma anche di più, perché appunto tocchiamo, no, quella complessità cui evocava appunto Paolo. Dal primo, come dire, per quanto riguarda il primo livello, almeno ditemi se è una sintesi corretta, e poi passiamo al livello operativo, come diceva Luisa, sicuramente abbiamo bisogno di raccogliere film, e quindi dovremo fare un'operazione di banchetti, fisica, di stare sulle strade, fare filmare appunto con i fogli, cominciare a fare un po' di controinformazione o semplicemente informazione, visto che nessuno l'ha fatta finora, se non nella sede del PD che ci raccontava prima Flavio, se non sbaglio. La logica però, rispondo appunto al libero cittadino, non è quella di abbattere la Casa della Salute, cioè noi vogliamo la Casa della Salute, noi vogliamo contribuire a fare la Casa della Salute, cioè non c'è nessuno spirito oppositivo, c'è appunto, anzi, tutt'altro c'è la volontà di far sì che quelle normative vengano rispettate, per cui come dire, il nostro compito è propositivo da questo punto di vista. Allora, da una parte sul primo livello c'è fare banchetti, raccogliere firme per arrivare appunto a quell'udienza conoscitiva che diceva anche Emily. Probabilmente ci saranno degli appuntamenti che lo stesso Presidente di quartiere farà, da quel punto di vista forse dovremmo presentarci come assemblea. Allora, prima del Consiglio aperto e prima di appuntamenti ufficiali che dovremmo far girare attraverso una mail di adesso vediamo come, dobbiamo come assemblea preparare magari dei discorsi, no? E fare in modo che ci siano le domande che sono un po' di tutti, no? Infatti abbiamo fatto questo lavoro di mettere per iscritto, come diceva Loretta, un po' di domande che erano appunto problemi, le domande che avevamo riscontrato fino adesso, continuiamo a farlo accogliendone altre in modo che siamo preparati e parliamo con un'unica voce. E vediamo anche di preoccuparci di altro, per esempio questo problema della diagnostica verbosa, no? E quando abbiamo in atto un processo di presentazione dobbiamo anche studiarlo e capire meglio. Dall'altra parte c'è un problema appunto più complessivo, il cittadino sulle case della salute, e secondo me, al di là del video sovracitato di Bugani, che faremo vedere, il punto è sfruttare il più possibile questi seminari di formazione che andremo a fare dal 12 al 19 febbraio, in cui parleremo, come diceva Paolo, anche di medicina generale, in cui parleremo appunto, no, immagino, no, di una serie di problemi che non riguardano solo la casa della salute nella vita, e quindi a cui invitare tutti i cittadini. E dall'altro punto di vista, e chiudo, e vediamo adesso come, no, tecnicamente fare queste cose qua, c'è qualcosa che già non è stata fatta, questo lo possiamo dar per scontato, cioè se le case della salute, ditemi, no, Martina, di cose sbaglio, questi esperti, nascono proprio perché non siamo alla ricerca dell'ente patogeno, ma di, no, di come evitare che una serie di processi di cronicizzazione, se ho capito bene, no, continuano a diffondersi anche in territorio comunale. Bisogna farla con l'indagine che diceva Paolo, bisogna capire che situazione è in la vita rispetto anche a altri quartieri. Facciamola noi, proprio per rispondere, no, alle critiche che faceva lei, cioè se nessuno l'ha fatta non è che non denunciamo il fatto che qualcuno non l'ha fatta, ma la facciamo. E forse farla significa, o potrebbe significare anche politicamente, entrare in quei tavoli di negoziazione che contano e cercare di allora influenzare le politiche affinché, come diceva Loretta prima, magari l'ambulatorio, l'ambulatorio è un lapsus freudiano, nella casa della salute in Avile, una volta che è aperta, se non è aperta 24 ore all'inizio, magari dopo un anno sì, no? Siamo dentro appunto quella battaglia politica e ci siamo come assemblea che entra appunto in quei tavoli. Vediamo adesso come magari fare queste cose, se c'è qualcuno che ci dà anche qualche consiglio, noi direi che i livelli di conflittualità propositiva, non so come chiamarla, è una cosa nuova anche per noi, che abbiamo sempre trovato un po' più essere antagonisti fino a un certo punto, come appunto andare avanti. Allora, su questo c'erano già Digo, Nadia, Andrea e Antonio. Vado io che sono il più rapido, 30 secondi. Allora, io ho una proposta, a parte la battuta che mi veniva spontanea sulla cosa che diceva lui, che Ara diceva che non ci sono soldi, diciamogli che facciamo delle primarie di partito, così può chiedere l'obolo e l'incassa, ma va bene. Allora, la proposta pratica è questa. Naturalmente c'è un minimo di firma da raccogliere, ma se sono di più noi siamo felici, vero? Quindi intanto chiunque che sia d'accordo o meno sulla eccetera eccetera, ma che voglia conoscere la verità, che è presente qui dentro, se raccoglie in questa settimana, parla con gli amici, 5 firme, sono esclusi parenti, fidanzati, amanti, figli, nonni, eccetera. Cioè, ogni persona nuova è una nuova piramide, quindi se ne possono raccogliere di più. Dopodiché chiederei, se è fattibile, che si possa fare un'email a tutte le persone che lasciano l'email qua o il contatto, dove dare informazioni su come raccogliere queste firme o su come indirizzarle magari ai banchetti, perché poi c'è il problema pratico che se ognuno di noi raccoglie 5 firme, come le convogliamo sui fogli da firmare? Quindi li mandiamo al banchetto, li contattiamo, ecco, quindi un gruppo, una persona, un gruppo di persone che riesca a mandare delle direttive su come raccogliere queste firme, anche eventualmente raccolte da tutti noi. Guardate che 5 firme a testa qui dentro abbiamo già raggiunti 200, no? il che significa che non è che non facciamo il banchetto lo facciamo lo stesso, anzi se ne possiamo fare un altro di più è meglio, però impegniamoci a fare questa cosa per amore della verità, quindi se c'è qualcuno che si offre volontario o si propone per gestire questa cosa sarebbe carino. Poi che tocca. Sì, bisogna essere residente. Questo è un grosso limite, purtroppo. Ardico. Scusa, ma c'è Andrea che voleva parlare. Sì, poi Andrea. Possiamo ragionare su come costruire il momento di fare settimana, magari con un piccolo gruppo vediamo qual è il momento migliore, aprendo e facendo scuola di informazione, perché io capisco le persone che sono confuse, ma perché vengono create trappole continuamente su questa cosa, no? Veramente c'è una cattura continua della privatizzazione e di tutte le conquiste piccole che riesce a fare, perché specialmente alcuni argomenti tecnici è difficile comunicare alla comunità. Per esempio, il discorso dell'ospedale, no? Quando si chiudono gli ospedali, è una misura positiva nei confronti della comunità, non è un pericolo, però è controintuitivo capirlo. L'ospedale è il punto di arricchimento delle case farmaceutiche e dei gestori dei vari. E il sistema per privatizzare la sanità, però non è tanto facile capirlo, però per dirvi sono due cose, no? Molto rapidamente, in un sistema dove la maggior parte della popolazione ha malattie croniche, in Italia abbiamo il 92% della comunità, la malattia cronica a differenza della buca non guarisce mai, ogni volta che è salito un gradino rimani in quello status, non torni più indietro. Qual è l'interesse del peccato? È non fare prevenzione, farti arrivare più precocemente possibile a prendere un farmaco che prenderai tutta la vita. Quando tu cominci a prendere il primo farmaco, l'ospedale non è in grado di venire a casa tua a cominciare a farti sentire bene la terapia per non farti prendere un altro farmaco. L'ospedale non riesce a prevenire che ci sia un aggravio. Allora che succede? La persona che comincia a prendere il primo farmaco si aggrava un po' di più, sale il prossimo gradino, non tornerà mai più indietro e ne prende due. Poi ne prende 3, poi ne prende 4, poi ne prende 5, poi ne prende 6, poi ne prende 10. Nessuno fa nessun tipo di prevenzione, in quanto è una persona allettata a casa che ha bisogno di un mercato, di caregiver, di persone che la vanno a accudire, persone che vanno a prendere. Questo diventa insostenibile per il sistema, diventa la porta per privatizzare di fatto il sistema sanitario. Allora, capite che la risposta a questo non può essere fatto ospedaliero né con un supporto. Queste cose tecniche a noi come sanitari che viviamo in questo quartiere ci piacerebbe dirlo. Ci piacerebbe fare una giornata in cui vi diamo un'informazione cercando di rispondere proprio ai vostri tecnicamente ai dubbi. Per dire all'amico che abita nel quartiere, è uscito confuso da un'assemblea, cerchiamo di formarci insieme in modo che se devo affrontare anche politicamente il discorso con le altre persone, lo possiamo fare. Abbiamo l'opportunità di avere i colleghi che vengono al Brasile, vengono a Portogallo in quella settimana, e dato che il Portogallo è un altro paese che non esiste, perché è l'unico in Europa che è in crescita, che non ha accettato tutta la parte dell'austerity, e loro come stanno facendo la sanità, poi cade la salute, no? Quindi penso che possiamo sfruttare questa cosa e cerchiamo d'accordo su una serata mai ricostruita. Però la casa della salute, se ben guidata e progettata, dovrebbe fare anche prevenzione. Prevenzione alla salute, lavorando con le scuole sullo stile di vita, alimentazione e movimento, prevenzione primaria, evitando che le persone sviluppino malattie, e soprattutto con gli anziani, quella che si chiama prevenzione terziaria, cioè evitare che quello che ha cominciato ad avere ipertensione faccia l'infarto e l'ictus, perché dopo che ha fatto l'infarto e l'ictus rimane a casa, allentato, prende 10 farmaci e ha bisogno di un esame di medico, che è il sogno di tutta l'industria della sanità. Perfetto. Andrea. Io su basi parallele, nel senso che penso che ci dobbiamo però concentrare sull'obiettivo fondamentale, capire come verrà costruita e realizzata dal punto di vista organizzativo la casa della salute di Marito, perché funzioni secondo le finalità che dovremmo avere. Io penso che questo è il punto che va messo al centro della nostra attenzione. Da questo punto di vista, lavorando in parallelo, io penso che sia giusto raccogliere le firme e chiedere il consiglio aperto, perché il consiglio aperto è un'esigenza di trasparenza nei confronti dei cittadini, che finora è mancata. Credo che Brunella faccia bene a dare questo incontro, diciamo, riservato, per porre però delle domande precise. La prima, come è stato già detto, quali sono i servizi che verranno erogati e quindi trasferiti dalla Casa della Salute nuova. Secondo, come si procederà nell'integrazione della rete dei medici di medicina generale, che deve essere uno dei pilastri della Casa della Salute. Senza non esiste. Poi è chiaro che c'è un problema di qualificazione di medicina generale, insomma, chi l'ha detto ha ragione, ma adesso è un discorso lungo, non già è qui. Terzo, come pensano di organizzare l'integrazione sociale e sanitaria? Perché il momento della cronicità, sia in termini di prevenzione, ma soprattutto in termini di accudimento, richiede un più alto livello di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari. Com'è il progetto organizzativo dell'integrazione in relazione al caso della salute? Questa è un'altra domanda a cui la Brunella deve chiedere una risposta per questo incontro. Ultima cosa, io credo che in questo incontro, ma anche in quelli successivi, va chiesto conto al dottor Trevisani, perché ha risposto ad una legittima richiesta di un gruppo di cittadini di fare un incontro, che l'incontro veniva rimandato successivamente all'inaugurazione della Casa della Salute, e poi ha partecipato in qualità di direttore di sede a un'assemblea di partiti. La cosa è di una gravità inaudita, perché l'assessore Marigazzi partecipa alla sede di partito, lui è politico, fa quello che vuole, ma il direttore generale della direttore e il direttore del distretto non possono partecipare a un'assemblea di partito, perché da questo punto di vista vengono meno al loro ruolo, che è un ruolo tecnico, quindi neutrale nei confronti dei cittadini. Ora bisogna chiedere conto al dottor Pisani, perché ha detto che non poteva incontrare i cittadini mentre ha potuto incontrare gli iscritti al PD. Questo è gravissimo e bisogna che lui ne dia conto, e ne dia conto ai capigruppo del Consiglio di Quartiere, che hanno diritto legittimamente di saperlo, ma poi anche nel Consiglio aperto, che spero riusciremo a farlo convocare, raccogliendo le 200 passa firme che sono necessarie. Io penso che se impostiamo il ragionamento su queste basi e continuiamo a lavorare come assemblea di cittadini, è abbastanza irrilevante se diventiamo un comitato o restiamo un'assemblea. Io credo che non sia questo il problema. Il problema è che bisogna continuare una pressione sociale nei confronti del quartiere, del comune, dell'azienda USL, affinché la Casa della Salute di Lavine sia quello che deve essere la casa. Se non mi ripeto, perché quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, che sono due interventi, questo è il ragionamento, cioè il problema non è meno, è più case della salute e meno ospedale. Non è negativo chiudere un piccolo ospedale, è negativo non avere una struttura, una rete organizzata di case della salute sul territorio, che sia in grado di svolgere sia un'azione preventiva che un'azione terapeutica e riabilitativa nei confronti di chi ha bisogno di una risposta al bisogno sociale e sanitario molto complesso, in particolare relazione all'invecchiamento della popolazione e quindi all'aumento della criticità. Io la imposterei così il ragionamento, senza fare dell'inutile scandalismo che non serve a niente, ricompatta Ala e tutti i suoi amici che non vedono l'ora di avere l'alibi di dire che noi facciamo del catastrofismo. Qui si tratta di parlare di dati precisi e certi. Dopodiché loro devono rispondere, e insisto, perché io credo che Cornella debba porre con chiarezza questa cosa, il dottor Trevisani dovrebbe mettersi da direttore del distretto per la scelta che ha fatto, perché è incompatibile col suo status di dirigenti. Ho fatto però la salute posta. Io penso che sarebbe giusto. Ma non l'ho capito. Io credo che sarebbe giusto in quella riunione chiedere le sue dimissioni, perché lui non può rispondere ai cittadini che non li può incontrare, porta in cima la seconda. È venuto meno al suo problema di etica professionale. E quindi lui si deve dimettere. E questo è un problema che va posto anche in sede di udienza conoscitiva in comune, nel momento in cui si realizza come le consiglie aperte. Dobbiamo essere chiari nella logica anche di etica dei comportamenti che devono essere percepiti da tutti. Fate un po' silenzio, tanto qui stiamo finendo. C'era un ultimo intervento, Nadia, e poi chiudiamo. Sono d'accordo con quello che ha detto Andrea. Ho un'unica perplessità, ma grandissima. Io ho questi incontri che sono stati invitati, non ho capito se ho un solo capogruppo o tutti i capogruppi. Tutti i capogruppi. Allora io credo che la forza politica vada ribaltata. Voi siete i capigruppo, Trevisani viene in quartiere, al consiglio di quartiere a incontrare i capigruppo. Perché non è indifferente dove Trevisani incontra la sede e soprattutto il fatto che lui detta le condizioni, cioè siete voi capigruppo del consiglio di quartiere che dovete andare da lui, il tecnico, a chiedere spiegazioni, e non è lui che viene, rispettando il vostro ruolo politico, viene in consiglio di quartiere. Guardate che non è una così alla forza questa cosa qua, cioè voi avete la forza politica per dire noi abbiamo i cittadini, rappresentiamo i cittadini, stiamo raccogliendo le firme. E quindi tu vieni, se vuoi venire, visto che sei andato già in una sede di partito. No, ma lui viene, cioè lui viene materialmente in via Saligello per intenderci. E ma è il contesto capito. Che non è un contesto istituzionale. È un secondo me il contesto deve diventare istituzionale. Il contesto deve essere istituzionale. Non te lo ricordi come la io sono tutta davanti che il Movimento Civile Stesso, però mi devo fare collega di Brunetto. La mail dice così. Ma non l'ha convocata, scusatemi. Sì, convocata da Ara. Che il presidente del quartiere invita i capigruppi e chiedi a voi capigruppi di farlo estensivo ai vostri colleghi consiglieri. Brunella non ha nessuno, si invita da solo. Io ne ho altri due, invito altri due e basta. E noi siamo in cinque. Perché il consiglio è composto di 15. 9 sono la maggioranza, che sono del PD. E poi gli altri siamo 9. Allora, se volete lo dico testualmente. Buongiorno, presidente del quartiere Navile, mi ha incaricato la segreteria per scrivere. E la segretaria. Mi ha incaricato di invitare la segretaria del quartiere. Mi ha incaricato di invitarvi ad un incontro che si terrà il giorno 13 febbraio 2018 alle ore 17.30 nella sede del quartiere Navile, via Saligello 3/20. Il dottor Fausto Trevisani, direttore del distretto sociosanitario, presenterà la nuova casa della salute di Navile. I capigruppo possono estendere l'invito ai consiglieri del quartiere Navile. Vi abbiamo chiesto se potevamo anche invitare i cittadini, no. Solo un'altra cosa che volevo dire, chiedeva il dottor che parlava giustamente della sanità. Io credo che nessuno, ma non stiamo dicendo che la sanità bolognese è cattiva, ci sono delle problemi, è buona, ma vogliamo che resti buona, che resti di eccellenza, cioè come riceviamo da tutta Italia, perché abbiamo le soliche, una grande eccellenza, abbiamo Sant'Orso, la Petita Pianti, abbiamo dell'aria un polo neurologico. Sta avvenendo anche di altri paesi. Siamo fini, non è così, perché abbiamo quello che i potenti vogliono, perché i centri di eccellenza non sono altro. altro che quello che è stato concesso ai baroni dell'università. E quello che è nato a Bologna è tutta una cordata rispetto ai poteri forti che in questa città ci sono. L'importante è che noi chiediamo di informare, dobbiamo di sapere, non è che andiamo a dire no, già ci contrapponiamo, non vogliamo la casa del nuovo, ma se poi vogliamo dire il vostro, che quello che mancò, che quello che sta mancando, perché ci chiamano adesso noi, rappresentanti della professione, a un incontro di che saremo quanti? Saremo 15, che non vuole che la politica, perché il consiglio è composto di 15, per esempio, sentiremo il dottor Trevisani il 15, è quello che abbiamo fatto. Noi chiediamo che a Lumena, anche penso che le altre forze lo condividiamo tutti, d'accordo di chiedere che i cittadini vengano informati. Allora, no, ma avevo chiesto la specificazione sul DEA, ma qua non ti risposto. No, il 20 di febbraio Barigardo viene in un sito, cioè viene al CCM, distrettuale cittadino, che purtroppo non è aperto. Ecco, io chiedevo a voi se avevate delle domande affinché io le potessi porre a Barigardo. Ma non potete venire, cioè vengono solo le associazioni. Condividiamo le domande che fa la presenza. Condividiamo le domande. Tina. Noi abbiamo anche fatto un po' una lista di domande che ci siamo un po' scambiati. Dovevamo raccogliere l'anno fa. La Loretta aveva anche, come dire, organizzato in maniera organica e possiamo mandare anche tramite la mail. No, comunque ci sono delle domande basiche che quelle sicuramente le faremo noi, ma se voi avete delle domande specifiche anche sul quartiere della vita, esatto, lui, era quello che diceva. Abbiamo raccolto per 9 pagine. Posso finire di dire una cosa piccola, cioè secondo me noi dobbiamo iniziare a dire c'è e ci manca. Cosa c'è e cosa ci manca, perché le case della salute siano chiamate vari. Se riusciamo a declinare queste cose per tutta l'area metropolitana, ma in particolare a partire da questa situazione del Navile, forse riusciamo a dire, siccome in altri paesi ci sono delle esperienze che possiamo anche prendere come esempio, no? Dove ci sono le case della salute e funzionano in un certo modo, e anche rispetto alla delibera regionale, possiamo dire bene, c'è questa roba, ma ci manca questo, fare un'operazione verità, perché è di questo che abbiamo bisogno. Vabbè, sono le 11, possiamo, anzi dobbiamo andare via. Per ora l'unico modo di tenerci in contatto è la mail, che ci abbiamo visto. Mi iscrivi alle mail list, mi lascio i menti. No, io abbiamo la mail list. Allora scusate, io volevo condividere una cosa. Abbiamo, come vi dicevo, questa mattina Non è un banchetto. No, non abbiamo il banchetto perché si è il campagna elettorale ci hanno tolto. Soltanto volantinato. Ma faremo volantinato. Sul letto avanti sicuramente. Comunque la domanda scriviamo tutte queste cose. Sì, a molti non ci hanno lasciato la mente. Un'altra cosa, scusatemi, anche questa. Che ci hanno dato martedì la possibilità di fare una trasmissione. Se lo volete dire anche tu. Beh, insomma, Radio Caio con Radio Città Fucino dedicherebbe tutta la trasmissione alla Casa della Salute. E mi sembra un'opportunità da cogliere, per cui anche eventualmente invitando le istituzioni, quindi altre voci, sbagliati, mi sembrerebbe importante che ci fosse qualcuno anche rappresentante della Serie A o comunque chi vuole. Chiedo anche a Martino, amico, no, semplicemente illuminando la privatizzazione. Vabbè, c'era della pizza. Cioè, la io non ho capito che cosa dobbiamo dire. Ma che cosa dobbiamo fare? perché c'è